A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Gigi Borghi in redazione, Giacomo Spunti in regia. Ci mancava solo Amauri, ci mancava solo Dunga, ci mancava solo Luis Fabiano, che si fa male a rendere ancora più incandescente la già tanto chiacchierata, per altri motivi, amichevole del 10 febbraio a Londra tra Italia e Brasile. Sì, perché Dunga ha convocato lo juventino e possibile futuro italiano e forse sogno, anzi certamente sogno, di Marcello Lippi e dei tifosi azzurri, lo ha convocato per questa partita che forse non aveva bisogno di un ulteriore argomento di dibattito. A Mauri convocato dunque, la parola però adesso spetta alla Juventus, perché la convocazione dell'attaccante dipende dall'autorizzazione del club bianconero, perché è scaduto il termine legale stabilito dalla FIFA per la convocazione di calciatori che operano all'estero. La conferma della convocazione, sto leggendo l'agenzia, dipende dall'autorizzazione appunto del suo club. La palla alla Juventus. Intanto la palla si è fermata per l'intervallo sui campi di Serie B, come sapete un quarto d'ora di ritardo per il caso Mannini-Possanzini, che sarà un altro degli argomenti di discussione di oggi pomeriggio. Anzi, 800 24 00 24 è il vostro numero verde, messaggi 349 238 6666. Parleremo anche di sci, dove Renato Pasini ha vinto in Russia nel fondo, nello sprint. Torneremo ovviamente sul caso Amauri. Risultati dunque all'intervallo in Serie B: Ascoli 2 Ancona 0, Avellino 0 Triestina 2, Bari Frosinone ed Empoli Vicenza 0-0, Parma Albino Leffe 1-1, Piacenza 2 Grosseto 1, Pisa Sassuolo 0-0, Salernitana Cittadella 1-1, il Brescia sta vincendo a Treviso 2-1, mentre si gioca lunedì Mantova Livorno. Dunque, in Inghilterra si appresta a volare anche la nazionale di rugby. Tra una settimana saremo qui a parlarvi di Inghilterra-Italia a Twickenham. Quindi cominciamo subito dal rugby. Palla ovale. Giacomo Bagnasco, buon pomeriggio. Dunque si apre a Twickenham il nostro decimo Sei Nazioni con presidente federale Dondi che chiede due vittorie per onorare la nostra decima partecipazione e Nick Mallet che sta facendo la conta, perché sono tanti gli infortunati sia tra gli avanti, ma lì non abbiamo grossi problemi, ma soprattutto in quella zona mediana che è fatalmente il nostro ago della bilancia. Uno dei giocatori più preziosi in questo momento è forse l'unico numero 9 di ruolo, come Pablo Canavosio. Pablo, buongiorno. Buon pomeriggio. Innanzitutto, come stai? Bene, diciamo, ho recuperato questa settimana e penso che lunedì già sono a posto per fare allenamento con tutti. Anche perché devi esserci, sei l'unico numero 9 di ruolo, ci sarà anche Toniolati molto giovane, Piccone Travagli non ci sono. E quella linea mediana, dicevo prima Pablo, è il nostro ago della bilancia. Come andiamo a Twickenham secondo te? Io spero andare molto bene. Diciamo, purtroppo dopo un novembre che ci ha lasciato tutti con sapore amaro, dobbiamo andare là e lasciare tutto per riuscire a fare una bella partita. Giacomo, tu cosa ti aspetti? Ma guarda, intanto io vorrei ricordare Canavosio brillante e se vogliamo anche porta fortuna nel 2006, quando grazie a una sua meta in intercetto consentì all'Italia di raccogliere il primo punto in classifica nella sua storia all'estero nel Sei Nazioni. Successo in Galles, Pablo naturalmente lo ricorda meglio di tutti noi, da allora però in nazionale e grazie al Viadana anche nel suo club è tornato a essere un mediano di mischia. Ecco, che cosa succede in questo rugby, Pablo, in cui è più facile cambiare ruolo, tanto è vero che tra l'altro si parla anche di un cambiamento di ruolo di un personaggio eccellente come Mauro Bergamasco, che nel corso del Sei Nazioni, sicuramente io penso non dalla prima partita, ma nel corso delle Sei Nazioni potrebbe prima o poi, magari a partita in corso, essere utilizzato anziché come terza linea, proprio come mediano di mischia. Pablo, si cambia continuamente ruolo, è successo a te e potrebbe succedere ora anche a Bergamasco. Sì, io spero che con Mauro non succeda, così gioco io, però sì. Diciamo che sì, purtroppo adesso il rugby come è più moderno, praticamente c'è la fase di conquista, poi i giocatori possono giocare tutti i ruoli e devono adattarsi. Allora per questo io, la mia storia all'ala è stata perché in allenamento erano tutti rotti gli ali, mi hanno messo a me, è andato bene e poi non mi hanno spostato più. Però adesso sono contento che sono ritrovato il mio posto con quello che ho giocato sempre e niente, farò di tutto per rimanere lì. Paolo, cosa ti ha chiesto Nick Mallett per questo Sei Nazioni e in generale cosa ti chiede Nick Mallett? No, diciamo che lui vuole che io sia più uno che passa la palla e che in difesa sia molto aggressivo. Diciamo sono un po' quelle caratteristiche che ho io, poi vediamo, dopo cercherò di fare il mio meglio per accontentarlo, no? Certamente. Per chiudere, Paolo, ha lasciato delle tracce il novembre, beh, diciamo nero, senz'altro la peggiore Italia che si ricordi, quella vista con i Pacific Islanders a Reggio Emilia, ha lasciato delle tracce nel gruppo. Vi siete ritrovati, avete già cominciato a lavorare, c'è l'Inghilterra dietro l'angolo, hai notato delle scorie di quelle partite? No, sicuramente, non lo so, se è stata la peggiore Italia di tutti i tempi. No, diciamo, di tutti i tempi no, dei tempi recenti, diciamo. Vabbè, così, diciamo che no, dopo l'esploratorio ci siamo guardati gli occhi, abbiamo parlato lì, abbiamo capito che siamo bene giù, abbiamo i piedi per terra e bisogna lavorare forte se vogliamo vincere qualche partita. Grazie Paolo, buon lavoro, in bocca al lupo per Twickenham e per questo Sei Nazioni. Grazie davvero Paolo Canavosio, adesso ci fermiamo un attimo per il traffico, poi torniamo con Giacomo Bagnasco, anche perché sarà il caso anche di cominciare a parlare delle nostre avversarie in questo Sei Nazioni, di avere un quadro un po' più chiaro, perché il presidente federale chiede due vittorie, però bisogna vedere a che livello sono gli altri. Allora Giacomo, abbiamo sentito Canavosio, speriamo che non gli venga raffreddore perché insomma insieme a Tognolatti, molto giovane, è l'unico vero numero 9 di ruolo prima dell'incognito dello sconosciuto come può essere Mauro Bergamasco con la maglietta numero 9. Innanzitutto come vedi questo esperimento? Può avere un senso questo esperimento di Mallett? Ma guarda, un pochino torniamo a fare i ragionamenti dell'anno scorso quando, come gli appassionati ricorderanno, c'era Masi. L'esperimento riguardò Andrea Masi con la maglia numero 10 di mediano d'apertura. Bergamasco sicuramente, ma a parte che ha un passato anche nelle giovanili, così in quel ruolo eccetera, non può avere la tecnica, la rapidità di passaggio probabilmente e la visione che ha un mediano di mischia di ruolo. Sicuramente in un rugby nel quale il mediano di mischia, e questo l'abbiamo sentito dire tantissime volte in queste ultime settimane, proprio da quando si è cominciato a parlare di questa ipotesi, in un rugby moderno nel quale il mediano di mischia viene considerato come una terza linea aggiunta, è chiaro che avere Bergamasco da quel punto di vista, certo, come protezione, come lavoro attorno al pacchetto, come protezione in un certo senso anche di marcato al suo fianco, come capacità di placcare e anche di ripartire, indubbiamente è un uomo di grande presenza fisica, è un uomo che da quel punto di vista non avrebbe naturalmente nulla da temere dal confronto anche fisico con giocatori come il gallese Phillips, che è il numero 9 più prestante, ecco, che c'è in questo Sei Nazioni. È un esperimento da vedere, perché anche quello di Masi era un esperimento da vedere, non si può bocciare in partenza, ci mancherebbe altro, perché Mauro è comunque anche un giocatore di grande esperienza e di grande personalità. Sicuramente tutti quanti, a partire da Mallett, sono dell'idea che è meglio cominciare il Sei Nazioni con un numero 9 di ruolo e con Mauro in terza linea, certo. Insomma, sicuramente su questo penso che non ci siano grandi dubbi. Ricordiamo che l'Italia appunto esordisce con l'Inghilterra in quella che è in assoluto la prima partita del torneo, sabato 7 febbraio, poi giocare domenica 15 in casa con l'Irlanda, il 28 febbraio in Scozia e poi due partite consecutive in casa per chiudere, 14 marzo con il Galles e 21 marzo con la Francia. Il valore delle avversarie lo sappiamo, sono tutte avversarie che nel ranking mondiale sono davanti a noi, è un ranking che si conquista con i risultati, nel rugby non si vince per caso, quindi questo dice che in teoria e in questo momento anche in pratica, visti anche i risultati di novembre, l'Italia è inferiore, perlomeno l'Italia di novembre è inferiore alle altre squadre. Io credo che la squadra più forte rimanga il Galles, l'unica che è riuscita a novembre a battere una formazione dell'emisfero sud, ricordiamo la bellissima vittoria sull'Australia, una squadra di grande equilibrio con anche ottime individualità sia nei tre quarti sia nella mischia. Poi la Francia e l'Inghilterra direi che è quasi naturale che siano al di sopra dell'Italia, se noi leggiamo i nomi dei convocati della squadra francese, insomma, ci si toglie il cappello con il primo e poi non lo si rimette più. Sì, sì, sì. Credo, tutto sommato, che se si deve puntare a qualche partita, come è giusto e doveroso, ci sia la partita interna con l'Irlanda, che potrebbe essere accessibile. L'Italia con l'Irlanda nel Sei Nazioni ultimamente ha fatto ottime figure senza mai riuscire a batterla. Giochiamo contro una squadra che può avere perso un po' di smalto, un po' di brillantezza in alcuni elementi, però nel frattempo è riuscita, soprattutto fra i tre quarti, anche con il nuovo mediano di mischia O'Leary, a trovare dei giovani veramente forti. E poi c'è la Scozia che è diventata un po' l'ancora di salvezza in più di un caso per il nostro Sei Nazioni, la Scozia che abbiamo battuto nel 2007 a casa sua e nel 2008 a Roma. Peccato però che gli scozzesi nel frattempo ci avessero battuto ai mondiali in quella che delle tre partite era la più importante. Certo. Contro la Scozia si può primo, si deve fare bella figura, secondo si può vincere. Certo, la Scozia vista a novembre non è stata un cliente facile nemmeno per il Sudafrica, che pure l'ha battuta, quindi non possiamo pensare che sia facile per noi. Abbiamo anche qualche novità legata alle convocazioni. Del Fava non ce la fa almeno per la prima settimana, preferisce continuare una preparazione separata e quindi nel gruppo di 30 che rimarrà a Roma fino a martedì, unito fino a martedì, è arrivato Pavanello al posto di Del Fava. I 30 diventeranno 24 e poi giovedì partiranno per l'Inghilterra. Ci sono alcuni giovani e alcuni di questi potrebbero rimanere nel gruppo ristretto, giovani interessanti come Quartaroli, Rubini, Pavan del Parma, Bacchetti e Favaro del Rovigo. A proposito di Parma, poi direi, se abbiamo ancora tempo, Carlo, di ricordare che nel recupero di campionato che si è disputato oggi a Modena, perché a Parma in questo momento non c'è un campo agibile, anche questa sarebbe una parentesi da aprire, l'Overmac ha vinto 38-24 sull'Almaviva Capitolina. Ha segnato Quartaroli, che abbiamo appena citato come giovane azzurro, e l'uomo del match è stato Rubini. Due bei segnali, il Parma sale al terzo posto, l'Almaviva Capitolina rimane ultima. Bene Giacomo, ci sentiamo tra una settimana, quando saremo lì con Inghilterra-Italia davanti, si gioca a Twickenham e l'Italia con diverse incognite va verso questa apertura del Sei Nazioni. Grazie Giacomo Bagnasco, chiudiamo la parentesi del rugby e poi cominciamo ad aprire tutte le altre, insomma oggi tanti argomenti. Eccoci tornati. Dunque, adesso sono le 17:23 minuti. Ogni sabato alle 17:25, sì, 25 come la durata di un normale set di pallavolo, avremo con Costanza un nostro vecchio amico, anzi, avremo sempre un nostro vecchio amico come Andrea Zorzi per aprirci a modo suo gli occhi sul mondo della pallavolo. Intanto oggi lo salutiamo in diretta. Ciao Andrea. Anche. Sì, oggi siamo un po' in anticipo, però giusto per ricordare a tutti, per raccontare a tutti che da sabato prossimo alle 17:25, 25 come un set della pallavolo, saremo qui con te e tu ci racconterai che cosa, Andrea? Ma proverò a raccontarvi un po' quello che ha caratterizzato la partita che io avrò visto nella settimana, nel senso che la classifica, i risultati potranno essere introdotti da te. A me piacerebbe provare a raccontarvi ciò che si è visto nel campo, il sapore delle schiacciate, l'odore di quanto accaduto, e proverò un po' a inventarmi in questo senso un ruolo che mi piace molto e che devo dire dopo di tempo sta provando a mettere in atto. E lasciare la tua personalissima zeta sul nostro programma del sabato. In questo fine settimana intanto si assegna la Coppa Italia. a Forlì. Sì, infatti a Forlì è iniziato adesso il terzo parziale della prima semifinale, a sorpresa Piacenza ha vinto il primo set, il secondo set vinto da Macerata, e proprio Piacenza-Macerata è la prima semifinale, quella che dovrebbe essere apparentemente a favore di Macerata, che arriva con maggiore sicurezza, maggiore determinazione, soprattutto con Piacenza con molti infortuni. La prossima invece tra circa un'oretta sarà quella ancora più interessante, perché più equilibrata, tra la Sisto Treviso e la Prebanca Lannuti Cuneo. Certo che Andrea, la formula delle Final Eight, che si gioca in due città diverse, almeno nella pallavolo, nel basket, concentramento unico, resta il fatto che insomma questa formula delle Final Eight per l'assegnazione della Coppa Italia a me piace tantissimo, non so a te. Una vera genialata, ha dato in un sol colpo interesse alla Coppa Italia, perché sicuramente sono le squadre più forti, ha dato interesse al giro d'andata della regular season, che sennò rischiava di essere un po' un'attesa della griglia per i playoff, e poi effettivamente giocato in questo periodo è il primo grande trofeo importante della stagione, che inizia a mettere qualcuno tranquillo. Chi lo vince come l'anno scorso Macerata, insomma, poi dopo ha vissuto il resto della stagione, non dico con rilassatezza, ma certamente con un bottino già in saccoccia. Andrea, ti aspettiamo qui sabato prossimo alle 5:25. Sarà un piacere ritrovarvi. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao. Grazie ad Andrea Zorzi. Dunque, ricordatevi, assegnatevelo ogni sabato 17:25 la Z di Zorro per quanto riguarda la pallavolo. Grande impazienza dei nostri ascoltatori, noto anche dagli SMS. Vi do anche il numero delle telefonate, così magari chiacchieriamo insieme. 800 24 00 24, tra gli SMS 349 238 6666. Calma ragazzi, con tutto quel che succede oggi, scrive un ascoltatore, nel solo e unico sport che conta, voi mi vedete a parlare di rugby. Certo, anche perché non c'è solo uno sport che contano tutti quanti. Con calma andremo su argomenti calcistici, parleremo di Amauri, convocato da Dunga, lo ricordo, per la nazionale brasiliana, per la famosa amichevole Italia-Inghilterra del 10 febbraio, di mille polemiche, di mille casi collaterali, parleremo di quello, così come parleremo di Mannini e Possanzini, fermati per un anno dal TAS, come ben sapete, e sentiremo opinioni importanti. Intanto però, con calma e con pazienza, sentiamo Dario Puppo sulla giornata dello sci, che ha visto la cancellazione causa maltempo delle gare di Coppa del Mondo in programma, mentre arrivano splendide notizie di nuovo dallo sci stretto, dove ieri sembrava di essere tornati ai tempi di Belmondo di Centa. E oggi, Dario, buon pomeriggio. Ciao Carlo, un saluto a tutti. Beh, oggi direi che abbiamo addirittura fatto ancora meglio, perché abbiamo preso un podio in più rispetto a ieri, altre due ragazze sul podio, questa volta insieme alla Follis, che ieri è stata battuta per 4 decimi dalla Longa, che è diventata la sesta azzurra a vincere in Coppa del Mondo per l'Italia. La Follis ha battuto invece per il secondo posto la Genuini, che è arrivata terza, ha vinto Pirjo Muranen, la finlandese, che aveva vinto il primo titolo disputato proprio della specialità delle sprint all'Acti 2001, quando ci fu il famoso scandalo doping, e tornata a vincere dopo parecchio tempo la Muranen, un'altra finlandese, perché poi hanno già Kuitunen e Saarinen che si stanno dando battaglia per la classifica generale di Coppa del Mondo. Però soprattutto, ovviamente, tu mi chiederai, ma abbiamo anche vinto oggi, abbiamo vinto con Renato Pasini, che si guadagnò la convocazione ai mondiali di Sapporo proprio vincendo a Rybinsk un paio di anni fa, vinse l'oro in coppia con Zorzi nella gara a coppie sprint, e devo dire che il segnale è molto importante in funzione della rassegna mondiale di Liberec, perché francamente possiamo fare molto bene, visto che la sprint lì sarà Schetting, la nostra tecnica preferita. Certo. Dario, invece, per chiudere questo collegamento, da uomo di sport, da uomo che segue il fondo, tu hai citato prima casi di doping in passato che hanno martoriato questo sport, vorrei una tua opinione sulla squalifica dei due calciatori, di Mannini e Possanzini, ad opera del TAS, vista dal tuo angolo, dalla tua prospettiva, cosa te ne sembra di questa vicenda? Io penso che è evidente che ci siano discipline come il fondo, soprattutto come il ciclismo, dove è molto difficile cercare di fare i furbi, dove c'è grandissima attenzione. In altri sport forse c'è un po' più, come dire, di margine. Sì. Credo che sia giusto che anche nel calcio tenga molto più sotto controllo la situazione, ci sono delle regole più rigide introdotte insomma dalla WADA. Però, come si dice, eccessiva probabilmente, e io posso anche essere d'accordo, il provvedimento nei confronti dei calciatori, per esempio, secondo me c'è stato un provvedimento eccessivo nei confronti di uno sciatore che aveva sempre fatto insomma bene, per una situazione che si può tutta andare ad analizzare. Sono un gigantista della squadra azzurra. Io dico, sono più abituato negli sport invernali a vedere casi del genere. Adesso tra l'altro ci sono state fermate tre ragazze finlandesi nei mondiali giovanili under 23 di fondo, e qualcuno per emoglobina alta, quindi non per doping, però siccome sono tre, sembra proprio una situazione analoga a quella di Lahti 2001. È vero che sembra che ci siano più casi nel mondo degli sport da fatica come quelli invernali, però insomma se si va a vedere probabilmente con controlli rigidi, duri, come ci sono nel ciclismo, forse ci sarebbero più casi. Certo. Sì, un po' meno di superficialità non guasterebbe, però no, qui siamo veramente al limite, siamo alla forma che supera la sostanza e che la supera di un pezzo, insomma. Grazie Dario, a domani. Grazie a te, alla prossima. Grazie Dario Puppo. Dunque, adesso ci fermiamo un attimo e poi cominciamo a parlare proprio di questo caso. Marini Possanzini, 25 minuti di ritardo, la sfuriata di Corioni e Cosmi negli spogliatoi di quel Chievo-Brescia del dicembre del 2007, gli ispettori tenuti fuori dalla porta, insomma, superficialità è l'unica parola che mi viene in mente, però può essere questo un anno di squalifica, che è tantissimo il prezzo da pagare per questa superficialità. Dunque, se vogliamo parlare in Italia di lotta dura, intransigente, senza sconti al doping, il primo nome che viene in mente non può che essere quello di Sandro Donati, che tra l'altro è attualmente consulente, l'unico consulente italiano della WADA, cioè l'Organizzazione Mondiale Antidoping, che ha portato fino in fondo e a queste conseguenze il caso di Mannini e Possanzini. Sandro, buon pomeriggio. Sandro? Pronto? Eccoci, mi senti? La qualità è molto cattiva la voce la sento bassissima, allora di disturbi, adesso, eh? adesso proviamo a ristabilire il collegamento, la comunicazione con Sandro Donati. Intanto io nel frattempo ne approfitto per aggiornarvi sui risultati di venire di questa stramba giornata di Serie B. Come sarà stramba quella di Serie A, con un quarto d'ora di ritardo sull'inizio delle partite. Ebbene, siamo a 25 minuti più recupero dalla conclusione delle gare e l'Ascoli vince 2-0 con l'Ancona, la Triestina è 2-0, vince 2-0 sul campo dell'Avellino, Bari-Frosinone 1-1, Empoli-Vicenza 0-0, Parma 2, Albino-Leffe 1, Piacenza 2, Grosseto 1, Pisa-Sassuolo 0-0, Salernitana 1, Cittadella 1 e il Brescia che sta vincendo 2-1 a Treviso. Proviamo a riparlare con Sandro Donati. Buon pomeriggio. Adesso si sente meglio. Sì, sento bene. Sì. Subito un suo commento su questa sentenza. L'impressione, almeno mia, è quella di una sentenza esemplare che magari ha voluto tracciare una direzione. Senz'altro è qualcosa di abnorme, perché un anno nella vita sportiva di un atleta è un sacco di tempo. Ma guardi, a me non sembra tanto esemplare quanto piuttosto fuori luogo. Sempre il fatto che le decisioni, diciamo, della procura del CONI erano già state sufficientemente equilibrate ed avevano sanzionato in maniera minima per una leggerezza che indubbiamente diciamo deve essere evitata e per la quale è giusto che gli atleti vengano educati, diciamo, ad evitarla. Ma poi questa decisione del TAS crea una sproporzione incredibile anche rispetto ad una serie di casi, certo, di calciatori già trovati positivi. Per giunta combinata ad un anno e mezzo di ritardo, dà l'idea di una macchina burocratica piuttosto distante, ecco, dallo sport reale, e mi pare tra l'altro che con una decisione che potrebbe portare conseguenze. Certo, senz'altro loro signori si sono comportati, intendo quelli del Brescia, gli stessi Mannini e Possanzini, in modo un po' stupidotto, perché se ci sono dei tempi e dei termini che devono essere rispettati, devono essere rispettati. Poi il presidente parla dopo, l'allenatore fa il mazzo ai giocatori più tardi, però intanto l'antidoping è una cosa seria e va fatto nei tempi giusti e anche con i comportamenti e le parole giuste, perché leggo di frasi riguardose nei confronti dei commissari antidoping. Detto tutto questo, mi sembra una vicenda formale, no? Una vicenda in cui la forma ha superato di gran lunga la sostanza, Sandro. Sì, beh, è così. Poi vede, c'ha tutte quelle caratteristiche che sono tipiche del sistema sportivo. Ancora una volta, ad esempio, colpisce gli atleti e dimentica è il contesto nel quale questi si muovono, che nel caso specifico aveva anche le sue responsabilità, ma ripeto, si tratta comunque, diciamo, di un fatto che era già stato con equilibrio giudicato e sanzionato dalla, diciamo, dalla procura del CONI. Quindi mi pare che più che altro in questa sentenza si possano leggere i segnali di questo braccio di ferro, chiamiamolo così, in atto tra l'Agenzia Mondiale Antidoping, la WADA, il CIO, sì, che è dietro le quinte, sì, è evidentissimo, anche perché l'impronta del CIO è sulla stessa composizione di questo tribunale di arbitrato, c'è, è evidente, rispetto a federazioni che stanno creando problemi rispetto all'attuazione del codice WADA, in particolar modo per quanto riguarda la reperibilità, diciamo, degli atleti. Certo. La grande domanda è questa: mettiamo che qualcuno abbia cercato di imbrogliare, sono passati 25 minuti, sono questi 25 minuti di buio e di ritardo, in quei 25, io non lo so e lo chiedo a lei, in quei 25 minuti può un atleta fare qualcosa, un atleta che ha sbagliato, che ha cercato di fare il furbo, fare qualcosa per ripristinare lo standard dei valori e quindi non essere pizzicato in modo positivo, può, per usare una parola, ripulirsi in 25 minuti se ha fatto qualcosa di sbagliato? Qualcosa si può fare, ed è esperienza dei controlli antidoping che alcuni atleti che hanno da nascondere provino a farlo, però nel caso specifico mi sembra che il contesto sia piuttosto chiaro. È nata questa baraonda di cui anche dall'esterno si sentivano le grida o altro, sì. Il tempo è stato impiegato in altro. E poi, ecco, sinceramente, magari in qualche sport la vedo questo tipo di organizzazione atta a sfruttare pure quei 20-25 minuti che prevedono, certo, il controllo antidoping. Nel calcio, non voglio dire che non esista il doping, perché c'è sicuramente, lo si capisce da tanti fatti, ma non vedo una organizzazione simile, poi in quel contesto, ripeto. Sì, è anche la mia impressione, ma era giusto per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco. C'è qualcuno che vi ha letto anche un certo sentimento anti-italiano in questa sentenza? Nei confronti del lassismo dei nostri organismi, nei confronti di modi di comportarsi un po' tipicamente italiani. Può essere anche un segnale all'Italia da parte della WADA? No, perché se andiamo a paragonare quello che poi accade nei controlli antidoping rispetto al calcio professionistico negli altri paesi, mi pare che ci sia un gran numero di controlli e una percentuale di positività che rispecchia in qualche modo l'evidente esasperazione delle capacità di prestazione e anche delle morfologie dei calciatori. Io direi che è evidente che anche nel calcio, come in altri sport, il doping c'è, lo si capisce dai ritmi elevatissimi di gioco, dalla frequenza delle azioni veloci, quindi dalla capacità, diciamo, di tutti i giocatori di continuare a correre compatti e vicini ai compagni, diciamo, per molto tempo della gara. Sì. Però questo c'è in Italia come all'estero. E io invece vedo nei diversi paesi un numero di controlli molto limitato e un numero di casi positivi che è anche inferiore a quello italiano, quindi non vedrei proprio in questo caso specifico una negatività del nostro paese. Io prima di salutarla le leggo due messaggi che mi sono arrivati. Il primo è questo: se una regola non va bene la si cambia prima e non si protesta dopo, e l'asso calciatori dovrebbe interrogarsi sul basso numero di positivi nel calcio. Altro messaggio, Riccardo da Firenze: una volta che nel calcio si applica una regola giusta antidoping, subito a fare piagnistei, non impariamo mai. Sì, però qui siamo davvero all'estremo. O no, Sandro? Sinceramente credo di non poter essere sospettato, diciamo, di protezionismo. Credo proprio di no. Ma in questo caso ripeto quello che ho detto all'inizio, la vedo come una cosa fuori luogo e più che altro un segnale, visto che atleti di altri sport, in modo particolare del tennis, Nadal, sì, nel caso specifico, sì, e poi anche del ciclismo, no, si sono subito associati. Ecco, io in questo vedo una situazione pericolosa, ad esempio questa ossessione per la reperibilità dell'atleta di alto livello. Io la vedo per gli sport individuali, dove effettivamente gli atleti si muovono in maniera notevole e incontrollabile, ma per i calciatori che gareggiano in quel determinato posto, si allenano in quel determinato posto e fanno quindi una vita di gruppo, mi sembra proprio una richiesta eccessiva. Siccome la WADA teme che su questa regola della ripetibilità ci siano molte ribellioni, credo che abbia dovuto in qualche maniera fare la voce forte, e ripeto, anche il Tribunale di Arbitrato l'ha fatta in modo del tutto fuori luogo su soggetti, su calciatori peraltro di importanza non primaria e quindi più facili da colpire. Io la ringrazio, professore. Arrivederci. Grazie davvero. Sandro Donati, mi sembrano parole molto chiare, molto precise. Se c'è uno in Italia che ha fatto una battaglia al doping e che fa tutti i giorni una battaglia al doping durissima, è proprio Sandro Donati. Quindi le sue parole le avete sentite, poi se volete ne parliamo insieme. Cesare da Latina, buonasera. Sì, buonasera, Genta. Senta, volevo parlare anch'io di Postanzini. Prego. Senta, e dal 2006 praticamente io siccome ho molta memoria mi ricordo molte cose che sono state dette, e si era parlato sempre della scarsa applicazione delle regole nel calcio, le grosse maglie della legge, sì, dei grandi scappatoi dappertutto, sia dal punto di vista finanziario, il doping. Adesso invece si sta discutendo, invece è stata applicata una regola ferrea, una volta tanto, e adesso invece si sta discutendo che è esagerata. Sono i calciatori, sono dei professionisti, sapevano benissimo, evidentemente, se non lo sapevano loro era la loro società responsabile, sì, quindi non vedo perché, lo sapevano benissimo, sicuramente non erano positivi, ma sicuramente hanno sbagliato, ed è giusto che venga fatta una pena esemplare, anche perché poi si creerebbe un pericoloso precedente. Cesare, perché però sulle sentenze esemplari io non sono mai d'accordo, perché se uno ruba una mela è furto e allora gli diamo 3 anni, no, sulle sentenze esemplari non sono d'accordo. È senz'altro un caso di, passatemi il termine, di stupidità nel modo in cui è stata gestita, di superficialità estrema in cui è stata gestita la vicenda, in cui è stato gestito quel dopo partita, perché il controllo antidoping è una cosa seria, tutti devono saperlo, è molto più serio di una partita vinto o persa, della rabbia di un presidente, di un allenatore, molto più serio di tutto questo, quindi l'antidoping viene prima della rabbia di Corioni, viene prima della rabbia di Cosmi, i tempi si rispettano, le regole si rispettano, prima i giocatori fanno quello che devono, poi gli fai tutte le romanzine che vuoi, eccetera, questi non devono permettersi di andare lì e insultare gli ispettori dell'antidoping, questo no, è tutta una gigantesca vicenda di superficialità, però ripeto, un anno, soprattutto se rapportato a casi di positività che abbiamo riscontrato da Nandrolone in poi, quanti ne abbiamo visti, è un anno di squalifica, è tantissimo. Sì, è tantissimo, però lei deve... Pronto? Si mi sente ancora? Sì, sono qui. Però lei deve pure capire che fino adesso è stato fatto il contrario, è stato fatto troppo lassismo, e evidentemente adesso per cercare di riprendere una certa situazione, anche nel mondo del calcio, ci vuole il bastone veramente. Lei sta parlando, sì, superficialità, ma stiamo parlando di super professionisti, non stiamo parlando del partito dell'oratorio. Sì. Conviene o no con me questa cosa qui? Evidentemente in Italia purtroppo noi le cose ce le dimentichiamo. Io ricordo anche i suoi discorsi di 2 o 3 anni fa, si parlava addirittura di squalifica a vita, di gente non nel calcio. Ma prendiamoli positivi però, eh? Sì, va bene, prendiamoli positivi. Ma questa è una bella differenza, Cesare, se mi permette. C'è Valverde che è uno dei corridori di punta spagnoli e che non è mai sceso dalla bicicletta. Per la stessa storia, Ivan Basso è stato fermo 2 anni, giustamente. Però, insomma, proviamo a parlare anche di una certa equità di trattamento. Cioè, Valverde, coinvolto nell'inchiesta, lo sapete, no? Come ce l'ha detto anche Rafa Nadal, che chissà che fine ha fatto la sua posizione, ho perso il filo della giustizia spagnola. Ebbene, quello non è mai sceso dalla bicicletta, questo è squalificato 2 anni. Questi fermi 1 anno perché non positivi, hanno fatto gli stupidotti in occasione di un controllo antidoping, pesi e misure, vogliamo parlarne? Insomma, mi sembra che dire quei deficienti dei calciatori adesso che paghino e le paghino tutte. Mi piacerebbe scoprire e sapere se fossero stati coinvolti Cristiano Ronaldo e il Manchester United in una vicenda di questo tipo, se la sanzione sarebbe stata la stessa. Faccio un esempio a caso, Comunque, insomma, se volete torniamo a parlarne anche domani, perché la vicenda è molto interessante. 800240024 è il numero verde, però adesso saluto e ringrazio Marco Ansaldi, inviato della Stampa. Ciao Marco. Ciao, ho sentito tra l'altro l'argomento che stavate trattando, che è molto interessante. Cosa ne pensi? Ma io penso che sia stata globalmente un'ingiustizia. È vero che forse ci vanno dei segnali forti per fare in maniera che anche nel calcio si prenda sul serio non tanto il problema dell'antidoping quanto le regole dell'antidoping, perché da quello che ho letto, io ovviamente poi sono stato molto marginale a questa storia, ma i due giocatori del Brescia si sono presentati in ritardo perché dopo la partita il presidente e l'allenatore li ha tenuti tutti lì nello spogliatoio e loro non sono andati. Cioè, ammettiamo, dal punto di vista del mondo del calcio, i controlli antidoping sono delle seccature viste un po' così, no? Come una cosa bella, e adesso lo facciamo pure. E quindi ci va obiettivamente un qualcosa di serio, no? Sì. Però è anche vero che tra la colpa e la pena mi sembra sia stata commessa un'ingiustizia straordinaria, e quindi, appunto, come dicevi giustamente, non so, Valverde, tutti ne parlano in questa operazione Puerto, e continua ad andare in bicicletta. Esatto. Poi sono anche un po' stufo, francamente, di sentire questa cosa dal punto di vista del mondo del ciclismo. Io ho seguito tre Tour de France e così via. Sempre questa storia dice: ah, si beccano solo noi, ma gli altri non li beccano mai. Ma c'è stata anche questa levata di scudi che Sandro Donati prima ha definito pericolosa, questa levata di scudi da parte del, ad esempio, dei ciclisti. Ma sì, cioè, è un po', capito, è un po' il discorso, allora, di quello che dice: allora, mi hanno beccato perché non evado le tasse. Sì, però tanto le evadono tutti perché non beccano anche gli altri. Intanto comincia a pagare. Bravissimo. E poi dopo possiamo vedere, insomma. Bravissimo. E poi c'è il discorso, giustamente, della disparità di trattamenti da paese a paese. Devo dire che noi, insieme alla Francia, siamo probabilmente il paese più attento, e tra le cose buone e non buone che il CONI ha fatto in questi anni, questa è stata, secondo me, una cosa buona, cioè di adottare una linea nei confronti del doping piuttosto rigida in tutti i vari sport, tanto è vero che se voi andate a guardare le statistiche di quanti sono stati gli atleti di tutti gli sport, ma compreso il badminton o cose del genere, che sono stati trovati positivi al doping nell'ultimo anno, è una lista enorme, cioè c'è stata una percentuale incredibile di aumento di atleti, ma non perché ci si dovesse, semplicemente perché i controlli sono più seri. Certo. In Spagna invece veramente si fa di tutto, l'operazione Puerta, e qui forse un po' i ciclisti hanno ragione, dice: qualche ciclista è rimasto coinvolto, vedi Basso e così via, altri sono rimasti nascosti, ma si parla di tennisti e di calciatori anche molto molto molto molto importanti, mm-hmm, che gravitano nel mondo o gravitavano nel mondo spagnolo e che invece sono spariti completamente da tutti gli elenchi. Sì, sì, si è perso il filo della giustizia, ma adesso parlano anche loro, adesso, sì. adesso parlano anche loro. Comunque, prima Sandro Donati, che ripeto attualmente è consulente unico italiano della WADA, ha parlato di sentenza abnorme, eccessiva, forse esemplare, ma nelle sentenze esemplari c'è sempre una profonda ingiustizia, no? Marco, invece, vorrei parlare con te di Amauri. Ah, benissimo. Pensa un po', Cioè, c'è questo Italia-Brasile che è un'amichevole, no? Amichevole, sì. Vetrina, Wembley, 10 febbraio, tutti lì a fare una bella festa. Poi salta fuori Battisti e adesso ci si mette anche Dunga, che convoca Amauri e lo ruba di fatto a Marcello Lippi. Anche se, come dicevi in apertura, c'è di mezzo la Juventus, perché la convocazione è stata fatta fuori per l'infortunio di Luis Fabiano, quindi fuori dai tempi previsti dalla FIFA per la convocazione di giocatori che giocano all'estero, quindi serve il consenso della Juventus. Bella storia questa, Sì, e bisogna vedere se la Juventus darà questo consenso. Bisogna, ti dirò, questa è tutta una questione che a quest'ora non è stata ancora dibattuta, perché ovviamente in queste ore la Juventus sta pensando ad altro, portare via la pelle col Cagliari, e quindi credo che sarà un discorso che si affronterà tra questa sera e domattina, perché io immagino che qualche pressione sia stata fatta perché Amauri risponda di no alla convocazione. Tra l'altro è anche una convenienza della Juventus, perché è ovvio che se tu hai un giocatore che poi viene convocato alla nazionale italiana, il viaggio più lungo lo fa Coverciano, se tu sei nel Brasile deve farsi, certo, tutte le volte la trasvolata oceanica. Quindi bisognerà vedere adesso la posizione della Juventus quale sarà, perché comunque per una società non è poi così semplice dire di no a una grande federazione come quella brasiliana, per i rapporti che poi si vengono a creare. C'è il problema del vedere poi qual è la reale volontà di Amauri, perché io immagino che se Amauri dicesse alla Juventus: guardate, questa è la mia grande occasione, dovete lasciarmi andare, diventa anche poi difficile per la Juventus dire no, noi ti teniamo qui e al massimo vai a giocare con l'Italia. Devo anche dire che la mia idea è un po' questa, cioè io sono abbastanza lontano da questi concetti patria e tutte queste cose qua, no? Cioè, non, però credo che la nazionale debba essere l'espressione di un prodotto nazionale e di gente soprattutto che vuole giocare con quella squadra, certo, con quella squadra lì. Io, insomma, anche giustamente mi sembra che Amauri abbia sempre pensato alla nazionale italiana come un'opportunità di scolta professionale, semplicemente sì, professionale. Non so se ha cambiato idea, perché francamente dopo, io al posto suo, dopo aver sentito tutto quello che ha detto Dunga nei mesi scorsi su di lui, io tutto sommato lo manderei a stendere, preferisco andare con una nazionale italiana che non è la mia. Ah, ma, infatti, questo è il punto, cioè, ti convoca fuori dai tempi perché si è fatto male tale Luis Fabiano, che non è esattamente un buon giocatore, ma non è un fenomeno. Non solo, ma dopo aver detto la volta scorsa, a novembre, quando c'era da convocarlo per un'amichevole, non lo convocò, disse: ma tanto, ma in questi anni a Mauri ha segnato pochissimo, e poi evidentemente non era neanche molto ben informato su questo. E poi all'ultima convocazione gli ha detto che al fondo non l'ho convocato perché ci sono 4 o 5 giocatori che gli stanno davanti, quindi il suo rischio è di entrare nella nazionale brasiliana e non vedere mai il campo, mentre invece con l'Italia sicuramente avrebbe altre garanzie. Però, certo, insomma, io penso che uno poi abbia anche dentro di sé delle cose, cioè uno da bambino nasce in Brasile, vede la nazionale brasiliano, ha Romario come idolo e tutto, sì, il resto, ci sta che preferisca andare con la nazionale del suo paese che non con una nazionale così. E poi immagina tutto quello che succederebbe, quanto abbiamo rotto le scatole ai camoranesi fino al 2007 che non cantava l'inno, quindi figuriamoci cosa faremmo con la Maurizio. Marco, grazie, buon lavoro. Ok, ciao. Grazie Marco Assaldi, inviato della Stampa, sempre un piacere chiacchierare insieme. Vi do i finali di B, anche se non sono ancora proprio finali, perché si stanno giocando gli ultimi secondi di partita. Ascoli 2, Ancona 0, Avellino 1, Triestina 2, Bari 2, Frosinone 1, Empoli 1, Vicenza 0, gol di Pozzi, Parma 3, Albino Leffe 1, Piacenza Grosseto 2-2, Pisa Sassuolo 0-0, Salernitana Cittadella 1-1, Treviso Brescia 3-2, dunque il Treviso che ribalta il risultato. Ripeto, non sono ancora risultati finali perché, come sapete, oggi le partite sono iniziate, e quelle di stasera inizieranno con una, e quelle di domani inizieranno naturalmente con un quarto d'ora di ritardo. Ci fermiamo qui, grazie a Gigi Borghi per il lavoro in redazione, a Giacomo Spunti in regia. Torniamo domani pomeriggio alle 17:00.